popolo può liberare se stesso. Alle sue gabbie d'animali elettrodomestici. Ma l'avanguardia d'America, dobbiamo fare dei sacrifici verso il cammino lento della piena libertà. E se il rivoluzionario non trova altro riposo che la morte, che rinuncia al riposo e sopravviva, niente o nessuno lo trattenga, anche per il momento d'un bacio o per qualche calore di pelle o prebenda. I problemi di coscienza interessano tanto quanto la piena perfezione di un risultato. Lottiamo contro la miseria, ma allo stesso tempo contro la sopraffazione. Lasciate che lo dica, ma il rivoluzionario, quando è vero, è guidato da un grande sentimento d'amore. Ha dei figli che non riescono a chiamarlo, mogli che fan parte di quel sacrificio, suoi amici sono i compañeros de revolución. Non lo cerco, ma è già tutto nel mio calcolo. Addio Fidel, oggi è l'atto conclusivo. Sotto il mio cielo, nella gran patria di Bolivar, la luna dei Geras e la luna de Playa Girón. Sono un rivoluzionario cubano, sono un rivoluzionario d'America. Signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.